it with the green duga gonta. It's a long imagination. Mi piace che penso a quello che sono tu e non spiccio mai. Ero nessuno, mo solo leo sulle spalle dei due. Per questo qua non me vai la pubblicità. E per questo qua più la musica per il divertimento. Mi dicono caso faccio perce, posso uscire lontano, ma non voglio con te saccio perce. Io non sono nessuno, lo maestro senza aiuto. E non mi pare giusto qua. Io mi più li meriti e che io se li merita. Anche se mi piace con canto e impazzisco per la musica. Mi sento un pazzo la cosa giusta. C'è lì con fronti su e la coscienza mia. Me pare che sta seguendo sì la giusta via. It's a love imagination, not for me, no it isn't the soul. Not for me, it's not this way. It's a love imagination, not for me, no it isn't the soul. Not for me, it's not this way. Giro me trovo con gli amici mi ehi, me diverto fino a quando posso. Sai, cerco un po' vivo ogni giorno senza pensieri. Senza che penso al futuro, ma va affronto un domani. È già successo, lo so, e mo non capita che io sfrutto tutto quello che ho fare oggi. Ma è giusto accaduto, come vento delle cose. Ora le faccio senza che penso sempre mille fiate. Oh, mo non capita che io diversa sai, questo tempo si ne sono cresciuto e mi ho imparato da non vengo scherzo. It's a love imagination, not for me, no it isn't the soul. Not for me, it's not this way. It's a love imagination, not for me, no it isn't the soul. Not for me, it's not this way. Giocato a poco spiccia tutto sto sogno. Mi dispiace a me e penso a cinque a me sta intorno. Ritorno a prendere la vita normale di tutti i giorni. Come ogni bagnone passa l'udio in fuso. Solo che io rimpiango sempre. Non sono riuscito manco con li dico. Sì, te voglio bene. Era scontato, non l'ho fatto con nome. Sento dire parole. Oh, oh, oh, na na na na na. Mi passa lo brivido sulla pelle e non mi nascondo con te di fuga. It's a love imagination, not for me, no it isn't the soul. Not for me, it's not this way.